ad alta voce. Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. Seconda puntata. Ferranini arrivò al socialismo per suo conto, senza supporre, né poterlo, si era fra il 29 e il 34 in Italia, che esistesse una dottrina e una realtà socialista. Intravide certe verità, la nozione di libertà formale, la spersonalizzazione capitalistica dell'individuo, del mondo umano, da sé, per improvvisa rivelazione interna, un poco come a 15 anni qualche ragazzo intuisce il corpo della donna. Ma era, e doveva rimanere, un'indole semplice, a dispetto di un incolto istinto speculativo che gli faceva cercare le idee e scavarle. E modesto, con la spontaneità con cui di solito si è l'opposto. Della sua maturazione politica, certamente precoce, non fece mai molto conto. Più di una volta Ferranini pensò, e anche disse, forse proprio a uno dei cugini Bignami: «Se sono un buon socialista, io non ho meriti. A mano destra non potevo tirare perché è andare contro natura, e a sinistra nemmeno in senso anarchico-sindacalista, perché mi ricordavo di Vanzetti. Da questa parte ero immunizzato a vita». Quelle tre lettere le aveva conservate e si era promesso di andare a salutare le tombe di Vanzetti e Sacco dove che fossero. Tentazioni ne ebbe anche lui, ma non contro la fede, semmai da insidiare la sua chiamata di socialista militante. La grande tentazione sua era attaccata a un bisogno strano e vitale, chissà di dove venuto, prepotente già nel bambino che d'estate in campagna si stendeva bocconi sull'orlo dei maceri e su ne veniva un miasmo peggio che di fogna. Stava a covare lì, con gli occhi, la fauna di larve e lombrichi che brulica sul viscidore verdastro a fior d'acqua. Era quel bisogno che lo mandava in città a cercare sui banchi del mercato le vecchie edizioncine sfasciate di Fabre, la storia delle termiti di Maeterlinck, a stanare i ragni nel solaio e i rospi nei fossi che poi inventariava. E la lente d'ingrandimento, avuta in dono dal maestro di Vimondino, Zanasi, ferrarese e fascista, lo stesso che nel 27 a Porta Po di Ferrara fece andare a monte l'attentato a Italo Balbo. Quella povera lente seguitò a ciondolargli dal collo, appesa uno spago, per anni. Poi il bisogno divenne cosciente e il tredicenne Walter capì che a dargli uno sfogo bisognava sacrificarsi e, ciò che costava di più, chiedere sacrifici. «Tutto quel che posso fare io», gli disse suo padre, «è di lasciarti studiare senza darti del matto e dell'ingrato». Il ragazzo era ostinato e ebbe anche fortuna per un po'. Bussò a molte porte, trovò a Reggio un farmacista, Bignami anche lui, che, pieno di figli, se lo prese in casa come bambinaio e garzone di bottega. E in cambio gli faceva pensione e gli permetteva di seguitare le scuole. Gli si affezionò, lo protesse, si mise persino in mente che potesse studiare da farmacista. Ferranini ne domandò a Amos, che stavano prendendo il caffè. «Ti ricordi il farmacista vicino all'ospedale? Vedovo, con tanti figli». «Altro che, era un parente nostro», rispose Amos. «Alla lontana, faceva il socialistello di quelli di Turati. Lo sai che cosa gli capitò a questo Bignami subito dopo la Grande Guerra a Bologna?» «No. Te, Vittorio, l'hai mai sentita?» Fatto è che a Bologna c'era il congresso socialista al teatro Brunetti. Il farmacista, che era l'organizzatore, conobbe la Kulishov e si innamorò di lei. E lei in lui, sul momento. Pensate che lei aveva passato i 50. Apriti cielo. Turati era geloso come una bestia, Per poco il socialismo italiano non si spaccava un'altra volta. Con l'aiuto del farmacista, il ragazzo era arrivato alla fine del ginnasio. Faceva la prima liceo. La meta si avvicinava, si precisava ai suoi occhi affascinati. Bologna, l'università, biologia. Biologia, raccontava Ferranini. Un nome che per un pezzo, al solo sentirlo, gli metteva il tremito come il nome del primo amore. Poi, il triste dicembre del 29. In un mese, suo padre ammazzato da una polmonite, lui che dava addio alla scuola, che si ritrovava a guastalla aiuto commesso al magazzino merci della ferrovia per dare una mano alla madre, restata con 90 lire di pensione e la testa sconvolta dalla disgrazia, che i vicini temevano si buttasse sotto il treno. Invece della testa le era andato il cuore. Morì nel 31, avanti di fare i 40 anni, di un aneurisma. Quello stesso anno i carabinieri scopersero nel magazzino merci della stazione, dove ancora il ragazzo lavorava, un pacco di manifestini che la sera avrebbe dovuto portarsi a casa, da spargere fra i sonnolenti o avversi compaesani. Cominciavano con le parole «L'Emilia era, è e sarà rossa». Licenziato in tronco, orfano, senza parenti e senza più casa, il ragazzo aveva imparato a conoscere direttamente, dolorosamente, il mondo vivo del lavoro. Alla ferrovia, a Ferranini era capitato di dover caricare da solo, in un giorno, 60 quintali di latte. La fatica lo aveva segnato in maniera definitiva, investendogli di una luce senza chiaroscuri certi aspetti e certi problemi del lavoro che nessuno studio teorico ha mai insegnato. Lo presero in una piccola fabbrica di scarpe a San Donato, ci rimase 7 anni. Anche lì, a penare, imballatore, autista, facchino, carica e scarica casse, rotoli di pellami, damigiane di acidi, dalle 6 della mattina alle 7 la sera. Non aveva la complessione per il lavoro pesante e la fatica non gli si impresse soltanto nelle idee della sua mente. Alla visita di leva gli fu trovato un soffio al cuore. Quello fu un bel colpo di fortuna. Non vanno a dichiararlo inabile. Finito di mangiare, rinvangava coi 2 bignami quel pezzo della sua vita, tanto per far venire l'ora di levarsi da tavola. Se non era che lo scartavano, lo aspettava la Bissinia e poi magari la Spagna. E invece, osservava Vittorio, la Spagna l'abbiamo fatta dalla parte giusta. Seguitò, credendo di dir bene, è per questo, vedi, che non si capisce perché non devi fare strada anche qui a Roma, al partito. Le carte in regola ce le hai. Ferranini, invece, quell'insistere lo impazientiva. Intanto ricordatevi che nella lotta partigiana io non c'ero. Uno della nostra età che non ha conosciuto la resistenza è un comunista di secondo ordine. Beh, non c'eri perché eri in America. Da quanto tempo? 5 anni. E non per colpa tua. Ci sei andato dopo la Spagna perché qua non potevi tornare. E poi tu conosci l'URSS, non siete mica in molti. Su, gente, non scherziamo, fece lui con poco garbo, già di malumore. Sono stato 40 giorni in Ucraina e in campagna quasi sempre. Io dell'URSS ne so solo quello che basta per capire che le nostre cooperative del Reggiano, le tue cooperative, no, insomma, sono una banca di refe dall'impresa collettivistica. Dico dal lato della mentalità. Ve l'ho detto tante volte. Da noi quello che si fa per il proprio porco interesse. I bignami si guardarono, provarono a ridere. Cari miei, c'è poco da ridere. Siamo individualisti, cioè antisocialisti. Pensiamo alla terra come alle ciccette delle ragazze. Abbiamo la concupiscenza della proprietà, però usiamo il linguaggio collettivistico. Si accalorava, impegnandosi nel discorso. Una serietà sproporzionata che non era insolita in Ferranini. In Russia potranno essere meno avanti di noi come tecnica. Mettiamo macchine e sementi, fertilizzanti, insetticidi, silos e caseifici, imballaggi e lascia pur dire. Ma quella mentalità, la concupiscenza, loro l'hanno superata. La differenza è tutta qui. E mettetevela in testa, altrimenti avrò sempre predicato per niente. È l'ambiente, disse Bignami Vittorio. L'ambiente capitalista. Ma porca matina, ragazzi, l'ambiente lo dobbiamo cambiare, sì o no? Abbiamo preso il caffè, fece Amos con la buona volontà di distrarlo. E ci siamo scordati il formaggio. Che reggiani siamo. Verso le 10 stavano per andare via. Il padrone del locale entrò ad annunciare all'onorevole che lo si chiedeva al telefono. Nuccia, possibile? Era raro che la sua amica si permettesse di chiamarlo in un luogo pubblico, anche solo la trattoria. Le aveva tanto raccomandato di essere prudente. Ma era proprio Nuccia. Parlava dalla stazione, stava aspettando il treno convocata a Milano d'improvviso dalla sua casa. La bottega cominciava a dare fastidi. L'avevano mandata a Roma da pochi mesi a dirigere una libreria del centro. E sarebbero state storie perché era vero, vendeva poco. Lei che aveva ottenuto di venire a Roma col promettere che sarebbe riuscita a salvare una situazione commerciale pericolante. Ma non ne aveva colpa. La libreria era in uno stambugio, con personale avventizio, e i romani non leggono o leggono i giornali nell'autobus di sopra alla spalla del vicino. Pazienza, mi difenderò. Sta certo che di qui non mi sloggiano. Mi preoccupa la Giulia. È a letto e ha la febbre. Ho ricevuto stasera una lettera da mio padre. Separata dal marito, Nuccia affidava la figlia ai propri genitori. Una bambina di 7 anni, troppo piccola, diceva Nuccia, e era sincera, per una mamma come lei, troppo vecchia. Penso che sia influenzata. A ogni modo, più di 2 giorni non posso fermarmi, riparto sabato sera, domenica mattina sono qui di nuovo. Se non che, osservò Ferranini, dopo averla lasciata dire, tu non puoi andare perché i treni non si muovono. C'è lo sciopero dei ferrovieri. Aveva parlato lui per incarico al sindacato personale di macchina a Roma Trastevere. E Boatta aveva dato notizia dell'inizio dell'agitazione nel suo intervento alla Camera, 3 ore fa. Niente, Walter, controordine compagni, niente sciopero. Difatti io sono qui, i treni partono e arrivano, purtroppo, ci avevo contato. Non è possibile. Caro, ti meravigli, da noi le cose finiscono sempre così. Andiamo, qualunquista. Come preferisci, ribatté Nuccia allegra. Ma non c'è metodo, non c'è la decisione, non c'è la durezza. E sai chi lo diceva? Gramsci, naturalmente, ma anche l'uomo di Predappio. Basta con le sciocchezze, la redarguì. Su certi argomenti Ferranini non voleva che si scherzasse. Del resto lui non scherzava mai su nessun argomento. E la vena qualunquistica di Nuccia era innegabile. Qualche volta manchi di sensibilità. Sei una partigiana, non ti vergogni. La sensibilità io ce l'ho a nanna, dove ti serve di più. Ah, ascolta, ho un'idea che forse ti piace. Dovrebbe piacere. La voce si abbassò. Sabato sera, va a dormire da me. Trovi la chiave dalla portiera, ti ho preparato il mio letto con le lenzuola di bucato. Pausa. Si aspettava che le dicesse non ce n'era bisogno. Io arrivo alle 7:30 sono a casa, mi rinfresco un attimo, alle 8:15, capito Walter? Siamo felici, capito? Se non che Ferranini era fedele alle sue abitudini, quanto fedele. Si sentiva a posto soltanto nella sua camera senza fronzoli e senza riscaldamento. E i cambiamenti di letto lo disturbavano, non era abbastanza giovane. «Sicché non ne hai voglia? Oh, Walter!» Ferranini si assicurò che il bugigattolo del telefono fosse ben chiuso. «È roba d'amanti di lusso, troppo raffinato per me!» «Ma me lo dici che voti hai fatto per entrare nel PC?» «Silenzio!» «Bada, Walter, che mi perdi!» Lui rise alla fine. «No, che non ti perdo! Domenica mattina vengo a prenderti alla stazione, andiamo a casa subito, pigliamo una macchina!» «Meno male che non mi offri l'autobus», rispose lei, conoscendo che la sua austerità era parsimoniosa oltretutto. Ciao, pensa alla tua bambina. La più lunga telefonata che ci fosse stata mai fra loro. Riagganciò sbuffando, tornò con sollievo ai cugini Bignami. Nuccia fu puntualissima alle 7:30. Non avendolo visto alla stazione, aveva fatto i 3 piani di corsa senza respirare dalla speranza di trovarlo. 5 minuti più tardi, uscita dal gabinetto dopo sciacquii e scrosci, era ancora in taglierino. Cosa, non ti spogli? Qui davanti a te? Non ti piace? Non vuoi? L'aperitivo, dici? Non mi fa bisogno. Non era mai elegante in certe allusioni e Nuccia ne soffriva. In compenso, si comportò da affamato. Aveva avuto ragione. Dopo il risveglio, così lei lo chiamava, Nuccia prese a raccontare, resa effusiva, lucida, da quella speciale riconoscenza che apre la mente alle donne per quanto la intorpida all'uomo. In ginocchio sul letto, nella poca luce della camera che avevano contribuito a surriscaldare, a lui pareva più magra, con qualche cosa di infantile insieme di troppo teso, non piacevole. Eppure Nuccia, che nella vita aveva sofferto, dimostrava tutti i suoi 38 anni. «Femna magra, femna agra», si diceva Ferranini distratto, ripetendosi una frase che aveva sentito da suo padre. «Dunque, il treno si muove, entro in cabina e mi metto subito per dormire nella cuccetta di sopra. Sotto c'era una donnetta sui 30, grassa, che batteva su una portatile, lettere commerciali. Si scusa, dice, c'è il commendatore che viene a Milano con me e seguita a battere. Intanto io cercavo di dormire. Poi entra un tale, piccolotto, dal mio posto quasi non lo vedevo. Si fa dare delle lettere e comincia a discutere, le firma una a una. Ora tornerà via, mi dico, era mezzanotte. Ma che? Finito il lavoro, il giusto svago. Lei si era messa sul letto e lui, suppongo, a frugarla. Come in casa loro. No, sta buono, Walter, ascolta questa. Lei faceva la ritrosa. Lo struscio sì, il solletico no. Lo struscio, hai capito? Io stavo per esplodere. L'uomo in piedi si reggeva con la mano posata all'orlo della mia cuccetta. Accendo la lampadina dietro a me, do un'occhiata a quella mano. Riconosco quella mano, vuoi credere? Riconosco l'anello d'oro a sigillo. Sai chi era il commendatore? Era Cesare. E chi è Cesare? Come chi è? Cesare Lonati, tuo marito. Direi, l'avrei picchiato in testa lì per lì. Viceversa, lo credi, mi è venuto da ridere. Ho tossito forte e dopo un po' se n'è uscito. La mattina all'arrivo a Milano non l'ho incontrato per buona sorte. Adesso mi permetti di tirare sulla tapparella? Sì, ma mettiti la vestaglia, le gridò. Il tuo Lonati, riprese poi meditativo. Qualcuno me ne ha parlato. Nel partito qui a Roma pare che lo stimano. Sai quando si è iscritto? Prima di sposarmi nel 48, l'epoca della grande paura. Il PC imbarcava industriali a dozzine che prendevano la tessera a scopo assicurativo. E sai perché lo stimano? Perché contribuisce. Tutti gli anni sono 80-100 abbonamenti. E non basta. Lui ha l'industria degli inchiostri. Fornisce l'unità e a dicembre manda all'amministrazione la fattura con su, di pugno suo, annullata, auguri dal compagno Cesare Lonati. Vorrei sapere piuttosto perché l'hai sposato. Si premette gli occhi col rovescio delle due mani. Proprio non ti so dire, Walter. Ed era una ragazzina di 28 anni. Ma insisteva, aveva una bella posizione, anche questo devo confessarlo. Con mia madre non andavo d'accordo e a te ti volevo già bene, lo sai. Ti guardavo in quei giorni là della prefettura e più ti guardavo, sparuto com'eri e come sei, più mi piacevi. Glielo dissi a Cesare quando ci separammo. Conosco uno che si chiama Ferranini, gli voglio bene. Quello è l'uomo che è fatto per me. Tu ricordi quel dicembre del 47 in via Monforte alla prefettura? Erano tempi grandi. Un anno dopo erano già tempi piccoli, flosci. E mi sono afflosciata anch'io. Mi sono fatta sposare, ero tornata quella borghese che ero di nascita. E ora lo sto pagando. Come suo padre, sindaco a Monticello, Nuccia Corsi aveva preso parte all'azione partigiana in Brianza e nell'Ossola. Dopo la guerra, mentre sgobbava per portar via una laurea, divenne fiancheggiatrice attiva del movimento comunista senza mai volere una tessera e nel 1947 si trovò con le squadre che occuparono e tennero alla disperata il palazzo del governo a Milano, estremo episodio effettivo della resistenza. In gran fretta, da varie località della Valpadana, erano accorsi elementi in aiuto a quegli audaci e fra gli altri Ferranini, allora capo della sezione del PC di Porta Castello, a Reggio Emilia. Lui diffidava, si infastidiva distinto del tono nostalgico, probabilmente perché alla febbretta dei ricordi era disposto, senza saperlo, anche più di lei. Si allungò sul letto, si stiracchiò e disse: «Cambiamo discorso, che è meglio? Datti qua». Nuccia era rimasta male quando se l'era visto vestirsi per uscire. «Perché non vuoi riposarti? E dici che sei pigro? Passiamo la giornata insieme». «Pigro? Altro che, proprio perciò sono attivo. Ho passato la vita obbligandomi a essere il contrario di come ero». O piuttosto a fare il contrario di come gli piaceva. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.